fiola d'oste le lava la rosa, lava la rosa, lava risenta. Le la risenta d'un bel fazzoletto, d'un giovanetto, che la da far sul da. Di l'alghi passa il signor cavaliere, ed un sassi in l'acqua si lulgatira. Castaga savi, signor cavaliere, migu l'acqua ciara, lum la fantul bri. Io pagheria 100 scudi d'oro a venì una notte a dormir con te. Domanderemo alla mamma mia se lei è contenta, si l'ulvignerà. Sì, va pure, figliuola mia, che 100 scudi saranno buon per ti. Noi guideremo sì d'una bevanda che tutta la notte si lui dormirà. Che si risveglia, signor cavaliere, che la nottina si le già passa.